Basic Italian, 7th edition. Chapter 5. A. A group of Tuscans has just arrived in town, and everyone is trying to figure out exactly where the Tuscans are from. Tell where they're from by piecing together the information you hear. First, listen to the model. Giuseppe, Pontedera. Giuseppe è di Pontedera. Now it's your turn. Although the information is in your manual, try to work on sound and recollection alone. 1. Lisa, Montespertoli. Lisa è di Montespertoli. 2. Michele, Rosignano Marittimo. Michele è di Rosignano Marittimo. 3. Fulvia, Castiglioncello. Fulvia è di Castiglioncello. 4. Claudia, Quercianella. Claudia è di Quercianella. 5. Leo, Poggibonsi. Leo è di Poggibonsi. 6. Flavio, Colle Salvetti. Flavio è di Colle Salvetti. 7. Nicola, Colle di Valdelsa. Nicola è di Colle di Valdelsa. 8. Antonio, Castelnuovo Garfagnana. Antonio è di Castelnuovo Garfagnana. 9. Isabella, Pietrasanta. Isabella è di Pietrasanta. 10. Luca, Piancastagnaio. Luca è di Piancastagnaio. 11. Lucia, Foiano della Chiana. Lucia è di Foiano della Chiana. 12. Paola, Rocca Tederighi. Paola è di Rocca Tederighi. B. You are working as assistant to the headmistress of a summer camp in the Alps, and you have to report to the headmistress where all the groups of children arriving at the camp are coming from. Put your report together from the information given. Listen to the model. Lazio. Gruppo A viene dal Lazio. Now it's your turn. 1. Sardegna. Gruppo B viene dalla Sardegna. 2. Sicilia. Gruppo C viene dalla Sicilia. 3. Calabria. Gruppo D viene dalla Calabria. 4. Abruzzi. Gruppo E viene dagli Abruzzi. 5. Umbria. 5. Viene dall'Umbria. 6. Emilia-Romagna. Gruppo G viene dall'Emilia-Romagna. 7. Trentino-Alto Adige. Gruppo H viene dal Trentino-Alto Adige. 8. Friuli Venezia Giulia. Gruppo I viene dal Friuli Venezia Giulia. 9. Val d'Aosta. Gruppo L viene dalla Val d'Aosta. 10. Marche. Gruppo M viene dalle Marche. 6. Your Italian relatives are extremely curious about where your family and friends live. Tell them what they want to know by using the material given in your manual. First, listen as the model is done for you. Lo zio Albert abita a San Francisco, in California. Now it's your turn. Use the material in your manual, then listen for the confirmation. 1. Gli zii John e Mildred abitano a Miami. 2. La nonna Jane abita a Portland. 3. I cugini Jack e Dave vivono a Honolulu. 4. Lo zio Ross abita nel Texas. 5. Il nonno Donald vive in Australia. 6. La cugina Diana lavora a Chicago. 7. Gli zii Tony e Mary abitano a Toronto. 8. Charles studia all'Università di Washington a Seattle. 9. June lavora a Los Angeles. D. Da dove ritornano? Where are these people coming from? Answer each question you hear with the cue provided in your manual. First, listen to the model. Da dove ritornano Alessandro e Michele? Ritornano dallo stadio. Let's start. 1. Da dove ritornano Angela e Isabella? Ritornano dagli Stati Uniti. 2. Da dove ritorna papà? Ritorna dall'ufficio. 3. Da dove ritorna la mamma? Ritorna dallo studio di Matteotti. 4. Da dove ritornano i bambini? Ritornano dallo zoo. 5. Da dove ritorna la zia Renata? Ritorna dal museo. 6. Da dove ritorna Giorgio? Ritorna dall'università. 7. Da dove ritorna Giulia? Ritorna dalla biblioteca. 8. Da dove ritornano Paola e Fiorella? Ritornano dai negozi. 9. Da dove ritornano i nonni? Ritornano dal mercato. 10. Da dove ritorna Pierino? Ritorna dal dentista. E dove aspettate? For each place given, say that you will be waiting there. First, listen to the model. Telefono. Aspettiamo al telefono. 1. Entrata del cinema. Aspettiamo all'entrata del cinema. 2. Porta di casa. Aspettiamo alla porta di casa. 3. Macchina. Aspettiamo alla macchina. 4. Casa. Aspettiamo a casa. 5. Caffè. Aspettiamo al caffè. 6. Negozio di Graziella. Aspettiamo al negozio di Graziella. 7. Fermata dell'autobus. Aspettiamo alla fermata dell'autobus. 8. Banca. Aspettiamo alla banca. F. Answer the questions you hear by using the cues in your manual. Listen first to the model. Dov'è il sofà? Il sofà è nel salotto. Let's start. 1. Dov'è il televisore? Il televisore è nel salotto. 2. Dov'è la radio? La radio è in camera. 3. Dove sono i fiori? I fiori sono in cucina. 4. Dov'è la scrivania? La scrivania è nello studio. 5. Dov'è l'automobile? L'automobile è nel garage. 6. Dove sono i vestiti? I vestiti sono nell'armadio. 7. Dove sono i libri? I libri sono sulla scrivania. 8. Dov'è il cane? Il cane è in giardino. 9. Dov'è il giornale? Il giornale è sul tavolo. 10. Dov'è l'album di fotografie? L'album di fotografie è in camera. 11. Dove sono i guanti neri? I guanti neri sono nella macchina. 12. Dove sono le chiavi di casa? Le chiavi di casa sono nella porta. G. You are in a shop in Italy and have to ask for everything you want to see. Unfortunately, the sales clerk never gets it right the first time. Listen to the model. Desidera vedere questa giacca? No, desidero vedere quella là, verde. Let's start. 1. Desidera vedere questi guanti? No, desidero vedere quelli là, neri. 2. Desidera vedere questa camicetta bianca? No, desidero vedere quella là, rosa. 3. Desidera vedere questo cappotto? No, desidero vedere quello là, marrone. 4. Desidera vedere questa borsetta? No, desidero vedere quella là, grigia. 5. Desidera vedere questi calzini? No, desidero vedere quelli là, blu. 6. Desidera vedere questi fazzoletti di seta? No, desidero vedere quelli là, di lino. 7. Desidera vedere queste magliette di cotone? No, desidero vedere quelle là, di seta. 8. Desidera vedere questo pigiama? No, desidero vedere quello là, bianco di seta. 9. Desidera vedere questo vestito? No, desidero vedere quello là, giallo. 10. Desidera vedere questa cravatta? No, No, desidero vedere quella là, rossa. H. Contradict your friend's observations in the same manner as the model in your manual. First, listen as the model is done for you. Questo fazzoletto è molto bello. Mi dispiace, ma quel fazzoletto è brutto. Now it's your turn. Look at the cues in your manual. 1. Questo cappotto è a un prezzo molto buono. 2. Mi dispiace, ma quel cappotto è costoso. 3. Questo caffè è bello caldo. Mi dispiace, ma quel caffè è freddo. 3. Questo libro è interessante. Mi dispiace, ma quel libro è noioso. 4. Questo dizionario è nuovo. Mi dispiace, ma quel dizionario è vecchio. 5. Questi guanti sono neri. Mi dispiace, ma quei guanti sono blu. 6. Questo vestito è lungo. Mi dispiace, ma quel vestito è corto. 7. Questa cucina è moderna. Mi dispiace, ma quella cucina è antiquata. 8. Tutto questo è vero. Mi dispiace, ma tutto quello è falso. 9. Questi ragazzi sono bravi. Mi dispiace, ma quei ragazzi sono cattivi. 10. Questi elefanti sono grandi. Mi dispiace, ma quegli elefanti sono piccoli. 11. Questa minestra è buona. Mi dispiace, ma quella minestra è cattiva. 12. Questa automobile è comoda. Mi dispiace, ma quell'automobile è scomoda. 1. You are in a store. And the sales clerk insists on showing you things that you have been shown before. Reject each item by saying that it is the same one as before. Listen to the model. Che ne dice di questa bella borsa? Ma quella è la stessa di prima. Now it's your turn. 1. Che ne dice di questo bel portafoglio? Ma quello è lo stesso di prima. 2. Che ne dice di questa gonna di lino? Ma quella è la stessa di prima. 3. Che ne dice di questa bella camicia? Ma quella è la stessa di prima. 4. Che ne dice di questi bei fazzoletti? Ma quelli sono gli stessi di prima. 5. Che ne dice di queste belle riviste? Ma quelle sono le stesse di prima. 6. Che ne dice di questi belli edifici? Ma quelli sono gli stessi di prima. 7. Che ne dice di questo bell'appartamento? Ma quello è lo stesso di prima. 8. Che ne dice di queste paia di scarpe? Ma quelle sono le stesse di prima. 9. Che ne dice di questi bei guanti? Ma quelli sono gli stessi di prima. 10. Che ne dice di questo bel dolce? Ma quello è lo stesso di prima. Jay, today everything strikes you as extraordinary. Say with great enthusiasm that everything mentioned is beautiful. Listen to the model. Cucina. Che bella cucina. Now let's start. 1. Salotto. Che bel salotto. 2. Negozio. Che bel negozio. 3. Cravatta. Che bella cravatta. 4. Bambina. Che bella bambina. 5. Portafoglio. Che bel portafoglio. 6. Fiori. Che bei fiori. 7. Borsetta. Che bella borsetta. 8. Orologio. Che bell'orologio. 9. Occhi. Che begli occhi. 10. Appartamento. Che bell'appartamento. 11. Pasticceria. Che bella pasticceria. 12. Dolce. Che bel dolce. Kay, you will now hear a brief narration about the Alessandrini family. Listen carefully, then answer the questions in your manual. I signori Alessandrini abitano a Borgo San Lorenzo, nella periferia di Firenze. Hanno un condominio abbastanza grande, con 3 camere da letto, 2 bagni, una sala da pranzo ampia e un salotto elegante. La cucina è molto moderna. Gli Alessandrini hanno 2 figlie, Claudia e Giulia. Claudia ha 22 anni e studia all'Università di Firenze. Giulia ha 19 anni e lavora in un bel negozio nel centro di Firenze. Il signor Alessandrini è ingegnere. La signora insegna alla scuola elementare di Borgo San Lorenzo. La famiglia è sempre molto occupata e spesso a casa c'è solo il cane, Cenci.